C'era un grande uomo d'affari che aveva tantissime fabbriche di sua proprietà. Oh, Ariel, sei arrivato esattamente in tempo. Buonasera. Allora aveva tantissime fabbriche e ogni tanto andava a trovare una fabbrica qui, una fabbrica lì, una in Cina, una in Romania, una in Italia, eccetera. Un giorno arriva in una fabbrica e questo grandissimo ambiente di lavoro, stanno succedendo diverse cose al tempo stesso, un posto estremamente frenetico, pieno di movimento. E lì al lato nota un ragazzo, evidentemente uno degli impiegati, che è lì appoggiato al muro senza far niente, come se non avesse proprio nulla al mondo a cui pensare. Qui stanno tutti lavorando bene e questo pigro sta lì così a guardare. Ma che roba è? Ovviamente non conosceva personalmente tutti gli impiegati. Va lì e dice: "Senti ragazzo, quanto prendi al mese?" E io prendo 2000 euro al mese. Tira fuori dalla tasca quattro banconote da 500. Prendi questo, il tuo ultimo stipendio, non tornare qui mai più. Via, non ti voglio vedere. Ok. Quello prende i soldi e esce fuori. E mentre continua il suo tour, il titolare chiede a uno dei tecnici, dice: "Ma quello lì, in che dipartimento stava? Cosa faceva?" Beh, sinceramente ci è venuto a portare la pizza. Non è vero. Gli andavo 2000 così. Quasi il doppio. Allora, spesso potremmo ci sembra a volte che il mondo si divide in due categorie di persone. Chi trova sempre un motivo per gioire, o comunque per essere contento, e chi trova sempre un motivo per fare il contrario. Abbiamo ottimisti, abbiamo pessimisti e così via. Adesso ci troviamo nel mese di Adar, appena iniziato, oggi il secondo giorno del mese di Adar, e i nostri Chachamim hanno una istruzione un po' sorprendente riguardo questo periodo del mese di Adar. L'istruzione è: Mishe nichnas Adar, dal momento che inizia, che entra letteralmente il mese di Adar, marbin besimcha, non solamente bisogna gioire, ma bisogna aumentare la gioia, averne tanta. Cosa che ovviamente, cosa vuol dire? Fino a che non è Adar non devo essere gioioso. Adesso che è Adar, trick, faccio uno switch e divento gioioso, divento felice. Come funziona questa cosa? E poi non prendono in considerazione la situazione della persona. Magari la persona sta in una condizione dove la felicità lo elude al momento. Comunque la contentezza non è giusta nel contesto in cui la persona si trova in quel momento. Cioè, vuol dire una cosa generica, bisogna gioire. È una istruzione un po' strana. In realtà questa citazione è la seconda parte di una frase. La prima parte della frase meno conosciuta, ma la prima parte della frase è: così come quando inizia il mese di Av, il mese in cui c'è il lutto del Beit HaMikdash e Tisha B'Av, no? La frase dice: così come quando inizia il mese di Av bisogna diminuire la simcha, la gioia, nella stessa maniera quando entra Adar bisogna aumentare invece la simcha. Ok? C'è una spiegazione. Oh, allora questo stiamo cercando di capire, allarghiamo un attimino, prendiamo tutta la citazione e troviamo qualche spiegazione. Qui l'abbiamo affrontata dal punto di vista del mese di Adar perché è il mese in cui ci troviamo, il mese corrente. Però la stessa perplessità ce l'abbiamo in realtà riguardo tutti i Moadim, perché la Torah dice riguardo i Moadim, Vesamachta Bechagecha, conoscete la canzone Vesamachta? Vesamachta bechagecha, no? No, io non lo so. Allora forse dopo la impariamo. Quella della parasha di Quale parasha? Chi l'ha letta? Kedoshim, così no. Samachta bechagecha, non è Kedoshim. Vesamachta bechagecha. Lifnei Hashem Elokecha, Sì, mi credo che hai Re, ragione. possibile. Re, sì, re. Re è giusto. Hai letto re? L'hai letto la parasha? O ti ricordi? Possibile. Può darsi. Forse l'hai letto. Non era la parasha del tuo bar mitzvah? No. Sì, ma sei bravo a leggere la Torah? Qualche volta mi serve una mano qua. Allora, Vesamachta bechagecha, devi gioire durante la festività. Una cosa se dici devi fare un bel fasto festivo, o devi mangiare la concia, o devi fare questo, devi fare quello. Devi gioire, è uno stato d'animo, che vuol dire devi gioire? Se sei gioioso, sei gioioso, se non lo sei, non lo sei. Come si spiega questa cosa? Gabbè, scusi. Sì? Possiamo dedicare... Sì. Allora, vogliamo dedicare la lezione Leilui Nishmat. Gioia Simcha di Veroli. Gioia Simcha di Veroli. Shabbatai... E Shabbatai Settimio Sermoneta. E Lisheva Bat Diamante Moscato. Elisa Cohen. Hanania di Nepi. Mordechai Angelo Moscato. Mordechai Angelo Moscato. E Renato Piperno. Renato Roberto Piperno Bracci. E Roberto Bracci. Roberto Reuven Bracci. Menuchatam Began Eden. Qualcun altro vuoi ricordare? Ok. Allora dedichiamo la lezione a queste figure. Il Maimonide Rambam dice che non solamente quando la Torah ci dice di gioire, allora quelle sono le occasioni nelle quali bisogna gioire. Il Rambam dice che tutte le mitzvot vanno fatte con gioia. Non esiste una mitzvah che si fa così, in maniera malinconica, in maniera senza pensarci o senza metterci il cuore o con tristezza. Vanno fatte tutte con la gioia. Cioè, in altre parole, l'istruzione, cosa vuol dire questo? Vuol dire che la mitzvah cos'è? Un'istruzione, un precetto, che dice fai questo. Tu dici, ok, lo faccio, poi lasciami in pace, c'ho la mia vita. Cioè, no, lo devi fare con gioia. Se lo devi fare con gioia è già un'altra esperienza. Certo. Perché richiede molto più, molto di più da te. Mettiti filino, ok, li metto. Una cosa meccanica, può diventare automatica anche. No, lo devi fare con gioia. È tutt'altra cosa. Questo lo dice Rambam alla fine delle leggi che riguardano il Lulav e l'Etrog. In quell'occasione lui coglie l'occasione del legame anche con Sukkot e dice che le mitzvot vanno fatte con gioia e la gioia stessa è un modo di servire Hashem, di servire il Signore. Fa un riferimento a un versetto, una citazione in cui la Torah parla di una serie di maledizioni, conseguenze, azioni negative, eccetera. È quella occasione quando a Roma si usa chiudere le porte del Tempio. Quando si legge questo nel Sefer, l'usanza a Roma è che si chiudono le porte del Tempio, cioè che nessuno entri. Quando è? Perché nessuno entri nel momento in cui si legge questo. Sono due in realtà, una a Kitavò e una a Bechukotai. Cioè che periodi dell'anno? Una è un po' prima di Rosh Hashanah e una è dopo, è subito prima di Shavuot, prima della festa di Shavuot. Ok. Allora, lì cosa c'è scritto? Lì c'è scritto tutto questo ti arriva perché non hai servito il tuo Signore con gioia. Non perché non hai servito il tuo Signore, ma perché non hai servito con gioia. Ok? Non è questo il senso letterale del versetto. Il senso letterale è non l'hai servito. Però c'è scritto anche con gioia. E alcuni maestri dicono questo va a sottolineare quanto è importante la simcha nel servire Hashem, nel fare le mitzvot, nel studiare la Torah. Ok, allora cerchiamo di approfondire. Nella Megillah, di Esther, tornando alla citazione originale, bisogna gioire durante il mese di Adar. Perché il mese di Adar? Perché non solo il Purim? La festa è Purim, mica è tutta festiva la mensilità di Adar. In realtà la Megillah stessa dice che il mese fu trasformato da un mese triste a un mese gioioso. Quindi si fa riferimento a un mese intero di gioia, non solamente a un giorno, a una data specifica della festa stessa. come è successo che tutto il mese si è trasformato in una, anche la festa più lunga che Hanukkah dura 8 giorni, non dura un mese intero. Invece a Purim c'è scritto che tutto il mese è un mese di gioia. Rashi dice, cosa vuol dire un mese di gioia? Dice, dal momento che entra il mese di Adar, entriamo in un ambiente in generale di Simcha, perché ci avviciniamo a Purim e ci avviciniamo a Pesach. Così dice Rashi. E uno si chiede, che c'entra Pesach? Pesach è nel prossimo mese, nel mese di Nisan. Qui stiamo parlando del mese di Adar, che bisogna iniziare a gioire, no? Allora i maestri spiegano, alcuni che commentano il commento di Rashi. Sapete come funziona dell'ebraismo? Uno fa un commento, uno commenta il commento, un altro commenta chi commenta il commento e così via. Finché arriviamo qui a noi. Dice, cosa c'entra qui Nisan e Pesach? La Simcha di Adar non è necessariamente legata solamente a Purim. C'è un'altra cosa nel mese di Adar che fa sì che ci sia un clima di gioia, e questa stessa cosa è legata anche a Pesach. Qual è questa cosa? Cos'altro è successo nel mese di Adar, a parte la festività, il miracolo di Purim? Qualcuno di voi lo sa? Bravissimo. In quale giorno, ti ricordi? Sette. Oh, molto bene. Il giorno Zayin Adar, 7 di Adar, è nato Moshe Rabbeinu. Che altro è successo nello stesso giorno? È morto. È anche il giorno della sua morte. Ok? Quindi lui ha vissuto esattamente 120 anni interi. Il giorno della nascita di Moshe Rabbeinu è il giorno in cui è nata la possibilità della nostra redenzione, che è quello che festeggiamo a Pesach. Dunque, e questo è quanto poteva intendere Rashi quando ha detto giorni di gioia che vanno da Adar e vanno fino a finire nel mese di Nisan. Non dobbiamo aspettare Purim per gioire durante Adar, già nell'inizio di Adar abbiamo qualcosa di particolare che ci porta e ci lega anche alla festività prossima, quella di Pesach, perché è tutto legato alla Yetziat Mitzrayim. Allora per questo può spiegare perché tutto il mese di Adar può essere un momento di gioia. Ma per quale motivo tutto il mese di Av, se ci ricordiamo l'inizio di quella frase dei maestri, hanno detto così come nel mese di Av si diminuisce la gioia, nel mese di Adar lo si aumenta. Ma perché diminuire la gioia per un mese intero nel mese di Av? Normalmente nella Halakha si limita il lutto il più possibile. Se voi pensate ad una semplice cosa, quando mai sia c'è un'occasione che bisogna rispettare i 7 giorni di lutto, ok? Il famoso settimo. Come funziona? Innanzitutto l'alaha è che i 7 giorni di lutto iniziano dal momento della sepoltura, ok? Allora se per esempio qualcuno è sepolto all'1 del pomeriggio, alle 13, domenica alle 13, come si contano da questo punto 7 giorni, secondo voi? Per dire, adesso, dopo 7 giorni, è finito il lutto grave. Sì, ma quando si fa? Questo sto dicendo. All'orario in cui è stata seppellita. Cioè, dalle 13 di domenica fino alle 13 di domenica prossima? Ah no, meno un'ora. Meno un'ora? Me l'ha detto, è meno qualcosa, ma non è meno un'ora. Me l'ha detto il Rav la scorsa settimana, perché è stato... Ok, ora analizziamo un attimo. Perché è venerdì? Il sabato non si può. È vero, meno un giorno. Meno invece un giorno. Un mese è più un giorno. Oh, allora. Faccio l'esempio di lunedì per togliere il Shabbat di mezzo, ok? Allora, lunedì è stata la sepoltura, ok? Lunedì all'una. Lunedì stesso è considerato un giorno. In teoria di lunedì non è rimasto quasi niente, perché alle 5 è il tramonto. Il nostro già scatta il prossimo giorno, ebraicamente parlando, vero? Se fosse venerdì sarebbe già Shabbat, quindi è già il giorno prossimo. Però nonostante ciò, in quelle 4-5 ore e concentriamo il primo giorno dei 7 giorni. Anche per la Milà è così. Per la Milà no, è l'ottavo giorno. Se uno nasce due ore prima di, un'ora prima di Shabbat. Sì. Come ottavo vuol dire è venerdì. Appunto, però sono sempre 8 giorni. Ma 2 ore prima di Shabbat era giovedì. No, era venerdì 2 ore prima di Shabbat, come giovedì. 2 ore prima che entrasse Shabbat. Sì. Era venerdì. Sì. Ok, quindi se tu conti 7 giorni, 8 giorni dovresti essere sabato. No. Venerdì. L'ottavo giorno da venerdì è venerdì. Contando venerdì. Sì. Qui, aspetta, non ho finito. Qui qual è la novità? La prima cosa è che tu il primo giorno è considerato un giorno intero, anche se è stato sepolto alle 2 del pomeriggio, alle 5 il tramonto, oppure se mezz'ora prima del tramonto è considerato un giorno intero. Che noi dobbiamo fare 7 giorni di lutto in teoria. Questo è già come se fosse un primo giorno. Ok? Quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, Shabbat, domenica è il settimo giorno. Quando finisce il settimo giorno in teoria? Di nuovo al prossimo tramonto, quando diventa, diciamo, lunedì, all'uscita delle stelle, volendo. In realtà, domenica mattina, possiamo andare al tempio, andare al cimitero, fare la shkava, alle 8 di mattina è finito il giorno, settimo giorno è finito il sette lutto. Perché nel lutto noi applichiamo una regola che si chiama Miktzat Hayom Kekulo, cioè un po' della giornata è come se fosse tutta la giornata. Questo si lega a un altro concetto, che si cerca di limitare il più possibile il lutto. Un altro ambiente in cui si esprime questa stessa regola è quando ci sono delle discussioni di halakha, di regola, di normativa tra i maestri per ciò che riguarda una cosa che è legata al lutto. Spesso ci sono discussioni tra i maestri. Chi alleggerisce, chi è più rigoroso in un determinato caso o in particolari situazioni. Allora, spesso si consiglia, è bene essere rigorosi, se uno può essere rigoroso è meglio. Nel lutto, la halakha è che bisogna seguire l'opinione che alleggerisce. Si cerca più possibile di limitare il lutto, non di aumentarlo, di portarselo appresso fin quanto la Torah lo richiede, ma non esagerare. E non solo non esagerare, ma anche cercare più possibile limitare. Allora, come si capisce, come si spiega l'idea che c'è scritto bisogna aumentare il lutto in tutto il mese di Av, perché non basta i primi 9 giorni in cui sono avvenuti tutti gli eventi della distruzione, la distruzione stessa, il 9 di Av, lì abbiamo il lutto grave, il digiuno, come se fossimo in un settimo collettivo per quelle 24 ore, basta. Perché tutto il mese di Av, che Shem Shem Mishnichnas Av, Mema'atim, si diminuisce, si fa diminuire la Simcha. Il motivo in realtà è semplice, è perché nel mese di Av non stiamo in lutto per un'unica cosa che è accaduta. Noi parliamo della distruzione del Beit HaMikdash perché nella nostra memoria collettiva è la cosa peggiore tra tutte. Ma nel mese di Av, in realtà nel corso del mese di Av, sono accadute tante cose brutte. Sapete che già quando gli ebrei erano nel deserto sono accadute cose brutte durante il mese di Av. Per esempio? Hanno pianto. Perché hanno pianto, sì. Gli esploratori. Per la storia del per la storia degli esploratori. Perché loro sono perché questi qua sono gli esploratori sono tornati. Sì. C'erano due che erano con Mosè. Sì. Gli altri 10 invece si sono un po' spaventati. Mm-hmm. Allora il popolo ha cominciato a piangere senza un motivo. Allora ha detto non hanno è vero? Paura. Allora c'è stato un pianto collettivo che gli ebrei hanno pianto per la non volontà di andare in Eretz Israel e HaKadosh Baruch Hu ha detto adesso vi do un motivo per piangere. Vero? Ma già quello stesso è considerato un lutto, il fatto che hanno pianto per non andare in Eretz Israel, il fatto che hanno sbagliato, diciamo, hanno fatto grossi errori sul come vedere il loro stesso futuro. Al contrario, nel mese di Adar sono successe diverse cose gioiose. È nato Moshe Rabbeinu, e che attraverso Moshe Rabbeinu attraverso Moshe Rabbeinu abbiamo ricevuto la Torah. Siamo... Anche lei è andata da... Ah, Mazal Tov, auguri, quando è il compleanno? Il 10 marzo, dovrebbe essere il 16 o il 15. Molto bello. So. Mazal Tov. Ecco, allora abbiamo un altro motivo per gioire durante il mese di Adar. Benissimo. Bene, ora procediamo. Il mese di Av, in cui si diminuisce la gioia, è un mese in cui ci sono stati vari motivi per, appunto, il lutto, la tristezza, eccetera, eccetera. E nel mese di Adar ci sono più miracoli e più occasioni di gioire, eccetera, eccetera. La domanda è, volendo approfondire un po' il tema in generale della, della gioia. Certo possiamo avere motivi di gioire nel mese di Adar a livello collettivo, ma i maestri dicono, tu, singola persona, dovresti gioire. Come dicevo all'inizio, se non, insomma, se non me la sento. Come si definisce questa cosa? Allora, in questo riguardo vorrei raccontarvi una metafora che ho letto che può gettare un po' di luce sulla questione. C'era una volta una in una piccola cittadina, una persona, la persona più importante della cittadina, che si chiamava Moshe. Questo Moshe era quello che tutti rispettavano, era molto saggio, molto intelligente. Qualsiasi, in qualsiasi momento in cui c'era qualche tipo di litigio, di problema tra due commercianti o tra marito e moglie o qualsiasi cosa, andavano da lui e lui riusciva a mediare, a dare un consiglio, a trovare una soluzione. E la gente apprezzava questa cosa e accettava i suoi consigli. E ovviamente la gente della cittadina cercava sempre di entrare nelle sue grazie, perché se un giorno avessero dovuto aver bisogno di lui, comunque si sarebbero sentiti più, diciamo, protetti, no? Diciamo così. Succede un giorno che questo Moshe, lui stesso litiga con qualcuno. E questo qualcuno è andato dal governatore della zona, dal presidente della regione, non so, e ha detto, guarda che questo qui ha creato un ambiente giuridico autonomo, lui gestisce, giudica, la gente lo segue, chi gli ha dato questa autorità, che succede qui, eccetera, bisognerebbe fare qualche indagine, ha dato queste informazioni. Allora, chiaramente, chi in realtà avrebbe dovuto davvero gestire queste cose si è molto arrabbiato. Com'è possibile? Contro la legge, togliere il potere da chi ce lo dovrebbe avere, eccetera, eccetera. E allora è stato chiamato davanti a una vera corte, una situazione dove avrebbe potuto davvero avere una punizione molto importante. Allora ha deciso di scappare, in quanto fosse sia possibile. Scappa dalla cittadina, corre e arriva in riva al fiume e non sa come fare, perché non sapeva nuotare ed era una persona molto sostanziosa, grande, e aveva paura, non sapeva cosa fare. Galleggia. Vicino al fiume vede un marinaio con molta esperienza e gli dice, ascolta, portami te dall'altra parte del fiume. Ma non c'era un traghetto, avrebbe dovuto portarlo sulle spalle, in qualche maniera riuscire anche a nuotare nei posti più profondi, eccetera. E questo marinaio non era una persona molto grande, molto robusta, era così media. Però ho visto chi era il richiedente, ho detto ok, faccio del mio meglio. E ha iniziato a portarlo attraverso, ad attraversare il fiume. Fanno la prima metà, e arrivano già a due terzi, arrivano ancora un po' di più. E prima di arrivare all'altra riva, gli dice, non mi dimenticherò mai quello che stai facendo per me. Quando tornerò alla mia posizione, ti farò avere una ricompensa. Allora lui sente queste parole e dice, cosa vuol dire quando tornerò? Non sapeva cosa stava succedendo. Cosa vuol dire quando tornerò alla mia posizione originale? Perché adesso cosa succede? Cos'è la tua posizione adesso? Tutto questo dentro l'acqua. No, no. Mentre stanno per arrivare alla prossima, alla riva, all'altra riva. Dice no, perché adesso sto scappando dal governo. Allora, però quando le cose andranno meglio, allora vedrai. In quel momento il marinaio perde le sue forze. Sì. Che vi ricordate? Era una persona piccola, non molto forte, fragile. E quello sprofonda nelle acque e affoga. È il marinaio. No! Mosè! Affoga. Dopo sono arrivati con le indagini, la polizia, eccetera. Perché l'hai fatto cadere? Chiedono al marinaio. Dice, no, non avete capito. Io non l'ho fatto cadere. Semplicemente ho perso le forze. Fisicamente non era più possibile tenerlo. Ed è caduto, non è che l'ho fatto cadere, è caduto. Che lui era motivato perché stava... Bravissimo. Io ero motivato. E nella motivazione ho trovato la forza e l'energia di fare una cosa che in teoria per le vie naturali fisicamente non sarei stato in grado di fare. Quella idea, il pensiero mi ha dato la forza, mi ha riempito di un certo potere che non sapevo di avere, di un'energia. Nel momento in cui, diciamo, il palloncino è stato scoppiato, non c'è stata più la possibilità. Non sono io, non è colpa mia. Questa metafora è legata al concetto della simcha, della gioia. La gioia è ciò che porta la persona a scoprire in sé delle energie e delle forze, delle potenze che non sapeva di avere prima di essere gioioso. Una persona che è contenta... Cosa vuol dire gioioso? Gioioso vuol dire uno che salta e canta e balla tutto il giorno. Quello può essere anche un matto. Gioioso vuol dire contento. Contento vuol dire anche soddisfatto di quello che ha, della propria posizione. Contento perché, non perché ha tutto, ma perché sa dove vuole arrivare. Una persona che è gioiosa, quindi contenta, riesce anche a concentrarsi meglio su quello che sta facendo al momento. Riesce ad essere meno distratto. E quindi è più produttivo, produce meglio, ha più energia, ha più forza. E non solo, la cosa è contagiosa. Se si lavora in un ambiente in cui c'è una persona così, è molto facile, diciamo, iniziare ad agire in maniera simile. Anche al contrario funziona così. Una persona triste attacca la tristezza, è pesante, attacca la pesantezza, il pessimismo, e quindi la produttività, l'energia, tutto in calo, netto calo. È normale. In un libro molto importante della Hasidut che si chiama il Tanya, il Rabbi Shneur Zalman spiega nel Tanya che nello stesso modo in cui quando vediamo due persone che lottano, se vedete un match di come si chiama? Di box o di wrestling, come si dice wrestling? Wrestling si dice in italiano? Ah. Allora, Se una persona si muove con pesantezza, con pigrizia, una di queste due persone, no? È ovvio che è facile conquistarla, è facile vincerla. Anche se lui è più forte dell'altro. Non dipende solo dalla forza, dipende dalla motivazione. La pigrizia, la pesantezza può rovinarti anche se sei più forte. E la stessa cosa vale per la lotta che avviene dentro di noi, con noi stessi, se seguire una via o l'altra, ma non intendo una via o l'altra così in maniera astratta, una via o l'altra, la via della pesantezza e la tristezza, la pigrizia, è tutto legato, oppure quella della leggerezza, della gioia, dell'energia. Non vuol dire che sei più o meno forte. Anche se sei meno forte, ma con questo voli con la leggerezza. E anche se sei più forte, ma con la pesantezza vai in basso. Quindi non è solo una questione di capacità mentali o possibilità a livello di studio, di preparazione o in altri campi della esperienza umana. È quello che c'è dietro. C'è una pesantezza o c'è una leggerezza? Se c'è pesantezza c'è pigrizia, c'è stanchezza, c'è depressione, c'è tristezza. Se c'è leggerezza c'è apertura, c'è condivisione. E quindi c'è energia, c'è forza, c'è produttività, c'è ottimismo. Per questo tra i Hasidim si diceva una cosa, c'era un detto molto bello. Il detto era... la simcha non è ufficialmente una mitzvah. Se guardiamo l'elenco delle 613 mitzvot, non c'è una mitzvah, bisogna essere besimcha, bisogna gioire, bisogna essere contenti. No, non è una delle mitzvot, ma si tira indietro tutte le mitzvot, se le porta tutte dietro. Non è una mitzvah, ma fa sì che tutte le mitzvot siano possibili, siano fattibili. No, una condizione. È una condizione, esatto, che fa sì che tutte le mitzvot siano possibili. E nella stessa maniera, al contrario, la tristezza o la depressione o la pesantezza o la pigrizia, tutto uguale come dicevo, non stanno nella lista dei peccati, nell'elenco di cose vietate dalla Torah, ma sono la condizione che portano a tutti i peccati. Cioè tutto ciò che è negativo, che è vietato o che comunque è nocivo per la persona, spesso può essere rapportato direttamente a questo tipo di atteggiamento. Al contrario, tutto ciò che è positivo può essere spesso rapportato all'atteggiamento opposto. Cioè anche i Hasidim dicevano che il Yetzer Hara, si parla spesso del Yetzer Hara, no? Il Yetzer Hara letteralmente è dell'istinto negativo. Non pensiamo al Yetzer Hara in questo senso qua, qualcosa di esterno, o lo Satan e le cose... Yetzer vuol dire ognuno di noi è sempre portato in due direzioni, dobbiamo sempre lottare con noi stessi. Allora i Hasidim dicevano, Yetzer Hara non gli interessa tanto il peccato. Cioè, attento che Yetzer Hara non seguire il tuo istinto negativo perché ti porta a peccare. Non è tanto interessato al peccato, è ancora più interessato alla tristezza che segue il peccato. Che la persona quando... cade in una tentazione, quando inciampa in un peccato e poi dice, mannaggia, perché l'ho fatto? Ma io sono davvero, non sono forte, io davvero non ce l'ho dentro, eccetera, eccetera. Questa è la cosa negativa che davvero gli Yetzer Hara vuole. Ancora più del peccato stesso, tra virgolette. Nel Zohar, libro base della Kabbalah, è scritto che la simcha è anche importante, la contentezza, la gioia è anche importante, perché rispecchia la nostra simcha, rispecchierebbe la simcha dall'alto. Nel senso che noi dobbiamo considerare, e molti a volte se lo chiedono perché me lo chiedono, come mi vedono dall'alto, come sono visto, come Kadosh Baruch Hu cosa vuole da me, come mi vede. La risposta è molto semplice, come lo vedi tu così lui ti vede. Lo specchio. È come uno specchio, proprio questo volevo dire, bravo. Se tu lo guardi con un sorriso, lui ti guarda con un sorriso. È tipo, credi in Dio, non l'importante, la domanda è quanto lui crede in te. Esatto, bravo. E allora come possiamo farlo? Come possiamo rientrare sempre in questa gioia, in questa contentezza? Vi racconto un'altra piccola storia. Dopo che è venuto a mancare il Rebbe di Lubavitch, un gruppo di persone hanno deciso di raccogliere più possibile testimonianze di persone che hanno avuto consigli o berachot o qualche tipo di rapporto con il Rebbe, in modo tale che questo possa rimanere per le generazioni come insegnamento e come spunti, eccetera. Allora hanno fatto e stanno ancora facendo migliaia di interviste a persone su storie specifiche che hanno avuto, incontri, eccetera. In un caso specifico ho visto un'intervista dove una signora veniva intervistata e raccontava questa cosa. Si usava dai Hasidim che quando una coppia stava per sposarsi, o quando aveva deciso di sposarsi, andavano insieme dal Rebbe a chiedere la sua berachà per la loro futura vita matrimoniale, famiglia, eccetera. È successo, questa storia raccontava, questa signora raccontava in questa intervista, che lei ugualmente era nella comunità hasidica e col suo sposo sono andati, hanno fatto un appuntamento, sono andati dal Rebbe e per chiedere la sua berachà. E queste erano delle occasioni che duravano 30 secondi o 40 secondi, pochissimo tempo, perché quando il Rebbe riceveva c'era una fila lunghissima e non davano possibilità di prendere troppo tempo del Rebbe, era proprio una cosa così veloce. Era una cosa molto rara se il Rebbe si trattenga con qualcuno per 10 minuti, era, cosa stanno dicendo? Poi se erano casi speciali che succedeva un'ora, due ore, come quando è venuto Arik Sharon o altre figure così, e poi alla fine tutti aspettavano, cosa ti ha detto, cosa hai detto? Era una cosa molto particolare. Allora, perché dico questo? Perché lei racconta una cosa fuori dalla normalità, cosa era successo? È entrata col suo sposo, questa signora, e ha chiesto loro berachà, si usava a dare un foglio con scritti nomi, eccetera, e lei a un certo momento, mentre in quei 10 secondi che stavano lì, scoppia in un pianto incontrollabile. Dice al suo sposo, per favore esci, devo parlare in privato con il Rebbe. Già una cosa stranissima. Ok, lui non sapeva cosa pensare, però chiaramente è subito uscito. E lei ha detto al Rebbe, tra l'altro è rimasta dentro 20 minuti, la gente impazziva, non sapeva cosa stava succedendo. E lei è uscita dopo 20 minuti e non ha detto a nessuno, racconta adesso, non ha detto a nessuno cosa è successo. Dopo la chuppa, è passato il tempo, si sono sposati, è stata la chuppa, eccetera. Dopo la chuppa, lo sposo finalmente ha trovato il coraggio di chiedere a lei, ma cosa era successo in quel momento? Che sei scoppiata in un pianto incontrollabile. E dice, adesso ti posso dire. Hai fatto bene a non chiedere prima. Io in quel momento avevo detto a Rebbe che vorrei annullare il fidanzamento. Perché? Perché ho detto in quell'occasione al Rebbe che io mi conosco e il mio carattere è un carattere molto duro, ma non solo duro, è un carattere che mi innervosisco facilmente, mi arrabbio e ho paura di mettermi in un rapporto in cui potrei far male a qualcuno con questo mio carattere. E non sapeva cosa fare, scoppiata in questo pianto, e ha detto, erano venuti per chiedere una berachà per il matrimonio, ma lei voleva annullare il fidanzamento e finire tutto. Per questo motivo, aveva paura del suo proprio carattere. Allora il Rebbe gli ha detto così, Lei ha detto così. Ha detto anche la pazienza è un tratto caratteriale che si può acquistare gradualmente, acquisire gradualmente. Cioè quando una madre fa nascere un figlio, acquisisce la natura, le dà più pazienza di quanto aveva prima che era diventata, che fosse diventata madre. E se nasce un altro figlio, gli arriva un'altra dose di pazienza rispetto a quanto ne aveva solo quando era nato il primo figlio. Perché prima si deve occupare solo di uno, poi si deve occupare di due, allora HaKadosh Baruch Hu dà la forza, dà la dose, anche la caratteristica che serve. Dice, io ti consiglio, il Rebbe dice a lei, ovviamente non hai figli, ti consiglio di prendere un lavoro che ti porta a contatto con i bambini, di lavorare in un ambiente che ti porta a contatto con i bambini. E se non trovi lavoro, non devi trovare un lavoro, fallo come volontariato. Chiedi a un asilo, a una scuola materna, se hanno bisogno di una volontaria. Stare più possibile a contatto con i bambini che necessitano di molta pazienza, chiaramente, e vedrai che ti abituerai a trovare dentro di te pazienza e calma nei confronti anche del comportamento degli altri. E così lei fece e ovviamente si sposò, eccetera, eccetera. E vissero felici e contenti. Però una storia vera che lei stessa racconta, è molto interessante. Perché vuol dire che essere contenti o gioiosi vuol dire mettersi in una condizione. Non vuol dire sono fatto così o non sono fatto così. Non è un tratto caratteriale che può essere legato a motivi di genetica. È una scelta. Noi possiamo scegliere di metterci in condizione di contentezza oppure di farci sprofondare, farci, come dire, travolgere dal contrario, dalla condizione contraria. È qualcosa che davvero si basa sulla nostra scelta. Non è una fortuna o una sfortuna o tutte queste cose che potremmo pensare che sono molto pensieri molto comuni, sono fatto così o non sono fatto così, come diceva. A noi Chachamim invece dicono meshenechnas adar marbin besimcha, come se fosse una cosa normale. Entra adar, aumenta la gioia, vuol dire aumentare, vuol dire che già c'è, non vuol dire che prima non c'è, adesso ci sarà. Aumentare vuol dire c'è un determinato volume, quando arriva adar bisogna alzare un po' il volume. Deve essere ancora, bisogna impegnarsi. Nessuno dice che è facile, anzi è molto più facile l'altro lato rispetto a questo. Leghiamo questa cosa anche a quanto stiamo studiando nella parasha di queste settimane. Stiamo parlando della costruzione del Mishkan e di tutto ciò che riguarda la costruzione del Mishkan, quindi tutti gli arredi, la menorah, l'aron e i mobili, ma non solo, anche il vestiario del Kohen, dei Kohanim, dei sacerdoti, come dovevano essere vestiti nel momento in cui prestavano culto all'interno del Mishkan. C'è scritto nel Talmud, il Talmud racconta una storia riguardo il Kohen Gadol. Sapete cos'è il Kohen Gadol? Kohen Gadol era vestito in maniera diversa rispetto a tutti gli altri Kohanim, e cioè aveva come base lo stesso vestiario, ma poi su quello si andava ad aggiungere tutta una, diciamo, una uniforme molto particolare, molto molto pregiata, molto piena di, molto preziosa. E poi c'è il pettorale con tutti i 12 le 12 pietre incastonate con i nomi delle tribù, eccetera eccetera. Faceva impressione vedere il Kohen Gadol. Il Talmud racconta che quando Alessandro Magno arrivò in Eretz Israel, sapete che Alessandro Magno conquistò tutta quella parte del mondo, e arrivò anche in Israele, chi andò incontro ad Alessandro Magno e i suoi eserciti quando questo venne in prossimità di Gerusalemme, il Kohen Gadol. Il Kohen Gadol con tutti i Kohanim dietro uscirono dal Beit HaMikdash per andare a incontrare questo nuovo imperatore, conquistatore, che però lì non ci fu una conquista con la guerra, era una cosa pacifica. E il Talmud racconta nel trattato di Yomà che Shimon HaTzadik, questo era il nome del Kohen Gadol, il nome e il soprannome, Shimon il Tzadik, è andato incontro al imperatore Alessandro Magno. Quando Alessandro ha visto il Kohen Gadol che lo veniva incontro, che gli veniva incontro, ha fatto così forte impressione su di lui che è sceso dal suo cavallo e si è inchinato al Kohen Gadol. Cosa fuori da ogni protocollo del contesto. E quindi possiamo capire da questa storia quanto faceva impressione la figura del Kohen Gadol con quel modo che l'ha vestito, eccetera, eccetera. La domanda è: perché sono così importanti questi vestiti? Anzi, noi siamo sempre abituati che ci educano che l'importante è pregare Hashem, l'importante non sono oggetti, figure e tutte queste cose qui, ci allontaniamo molto nella nostra cultura da queste cose qui. Perché tutta questa importanza invece a questo vestiario che fa così impressione, che uno potrebbe anche sbagliare e quasi dire questa è la cosa importante, mai sia, no? Dove sta l'importanza qua? L'importanza sta nel fatto che questo riguarda non solamente il Kohen Gadol, ma ognuno di noi. Quando una persona si veste in un certo modo, inizia a pensare in un determinato modo. Sono state fatte anche delle ricerche negli anni recenti in questo riguardo. Prendi un gruppo di persone che fanno tutt'altro e vestili da soldati o da poliziotti o da carabinieri. Iniziano a comportarsi come se lo fossero. Si dice che l'abito non fa il monaco. Non è necessariamente così. L'abito ha un grosso effetto sulla persona. Certo, il modo in cui si pone. Però sei stato? Però uno non si sta a Per questo motivo c'è scritto che abbiamo parlato del Kohen Gadol, no? E ho detto è legato anche a noi, perché anche nella Halacha, che le norme che riguardano la tefilà, è scritto che c'è un verso che dice Hikon likrat Elokecha Israel, preparati quando vai incontro al tuo Dio Israel. I maestri dicono, cosa vuol dire preparati quando vai davanti a tuo Dio? Quando è che vai davanti a Dio? Quando preghi. Quando preghi. Allora qual è la preparazione? Vestirsi bene. Maniera degna, maniera decorosa. Perché? Non perché Dio ha bisogno della tua cravatta. Perché tu quando ti vesti bene, ti poni in un'altra condizione. In un'altra condizione mentale, un altro modo di pensiero. Ognuno lo sa. Ognuno lo prova. Quando ti metti una tuta, sei in un certo stato d'animo. Quando ti metti la cravatta, è un altro. È diverso. Perché in realtà noi esseri umani siamo sempre in uno stato di vestirsi. Cosa vuol dire di vestirsi? Non solamente con gli abiti che mettiamo sul corpo. In realtà ci sono delle vesti più spirituali rispetto a quelle alle vesti fisiche, materiali. Quali sono le vesti? Sono le vesti dell'anima. I vestiti dell'anima sono tre, nella Kabbalah è scritto. Il vestito, tra virgolette, l'abito più vicino all'anima è il pensiero. Il nostro pensiero. Il pensiero è una cosa che non si ferma mai, è sempre, avvolge sempre al nostro interno. E questo è un vestito. Il secondo vestito è la parola. Il terzo vestito è l'azione. Queste sono tre cose che sono il ponte che legano il nostro interno a quello che è all'esterno di noi, partendo dal pensiero, la parola ancora più esterna e l'azione, proprio qualcosa di concreto al di fuori della persona stessa. Sono paragonati a degli abiti, a delle vesti, perché si possono cambiare, si possono spogliare e si possono rimettere. Più vicino è l'abito alla persona, più difficile è questa operazione. Quindi quello più lontano è l'azione. Se l'azione non è voluta, la si può cessare. Dipende dalla tua volontà. La parola, anche però è un po' più difficile. Se ci accorgiamo in mezzo a un bel discorso, proprio uno di quelli che però non è così degno, allora se volessimo potremmo interrompere di dire quella cosa o evitare di dirla e subentrare con invece un discorso alternativo che è degno del contesto, se vogliamo. Si può sempre cambiare. Il pensiero, che è quello più vicino alla persona, è più difficile perché non siamo sempre abituati a controllare il pensiero, ad esercitare questo controllo sul pensiero. Perché è quasi una cosa istintiva, no? Va avanti. Però uno può guardare dentro di sé e dire, ah, scusa, io sono padrone di questi pensieri, se volessi potrei fermare. Ovviamente non puoi fermare il pensiero, però lo puoi cambiare in un altro. Puoi far subentrare un altro pensiero. Se non hai come far subentrare un altro pensiero, molti si chiedono per esempio nella tefilà. È una cosa generale, però faccio l'esempio della tefilà. Faccio la tefilà, grazie a Dio faccio la tefilà tutti i giorni. Allora sto facendo l'amidà, sono consapevole del fatto che mentre faccio l'amidà, è come se mi trovassi davanti al re, mi trovassi davanti ad Akadosh Baruch Hu, e per la mente mi passa la Roma, la borsa, tutto quanto quello, tutto meno che la tefilà stessa. Perché? Perché sono abituato a dire le parole, è normale, sono un essere umano. Come devo fare? Beh, richiede impegno il fatto di cambiare il pensiero. Uno dei consigli che danno i maestri è di memorizzare alcuni brani, o di Torah, o di Salmi, adesso non dico nel contesto di Tefilah, ma in generale, nella giornata di una persona che si sente che si sta perdendo nei pensieri e deve cambiare. Pensa a qualcosa che hai memorizzato di Torah, un brano di Torah, un brano dei Salmi, un pezzo della Tefilah, qualcosa di sacro, qualcosa che può un attimino pulire l'aria, no? Purificare l'aria. E poi prosegui con la tua normale giornata, eccetera. Ma questo per dire che cosa? Per dire che tutti questi tre elementi sono come se fossero degli abiti che possono essere cambiati. E la stessa cosa la applichiamo anche alla Simcha. Quando si parla della Simcha, delle festività, bisogna gioire durante la festività, bisogna gioire, se non me la sento. Allora Rambam parla per esempio di bambini, dice bisogna far gioire anche i bambini. Come fai a gioire i bambini? Dagli dei regalini. Scusa, ma bisogna gioire con la festività o bisogna gioire con i regalini? Però non è la gioia di Pesach, è la gioia del regalino. Oh, Rambam sta dicendo ci sono dei mezzi, si possono utilizzare dei mezzi. A volte la persona ha bisogno di un regalino di dare a se stessa. Ok, datti un regalino, l'importante è che ti poni nella condizione di Simcha. Il resto segue. Nessuno è perfetto. È meglio quello che stare a sprofondare in una situazione opposta. È molto meglio, perché poi, come abbiamo detto, non è una mitzvah, ma può portare a tutte le mitzvot. E quindi bisogna abituarsi. È una questione anche di abitudine. Abituarsi a fare un sorriso anche gratuito a qualcuno, anche se quel qualcuno non mi ha dato niente, non lo conosco, non mi ha fatto niente. Dagli un sorriso, non ti costa niente. Abituarsi a essere riconoscente, ringraziare, essere positivo. È tutto un porsi in una condizione, abituarsi a pensieri positivi. Se qualcuno pensa che è l'unico al mondo che ha pensieri negativi, sappia che non è così. Tutti hanno pensieri negativi. E tutti pensano di essere gli unici ad essere tartassati da questi pensieri che mi fanno impazzire, che non trovo pace, eccetera, eccetera. Siamo tutti in questa condizione. E abbiamo tutti la possibilità di porci in un'altra condizione. È un abito e può essere cambiato. Guardiamo la parola besimcha in ebraico, con gioia, con contentezza. La stessa parola besimcha, le lettere che compongono la parola besimcha, compongono la parola, cambiando l'ordine, compongono la parola machashava. Cosa vuol dire machashava? Pensiero. Besimcha uguale machashava, parte dal tuo pensiero. No, da te, non da lui. Il suo da lui, il tuo da te. Dalla testa, esattamente. È vero che quando si è contenti si sorride, ma è anche vero che quando si sorride si è contenti. Quindi a volte bisogna porsi nella condizione, mettersi nella condizione e poi segue la simcha. Anche un sorriso falso porta poi a un sorriso vero, a un sorriso autentico. Allora ricordiamoci, ci sono tre abiti che abbiamo, oltre quelli materiali, che sono il pensiero, la parola e l'azione, e la maggior parte dell'esperienza umana avviene con questi tre abiti, e questi tre abiti possono essere cambiati. Quindi non pensare come quella signora al carattere interno che può essere chissà cosa, brutto, pericoloso, eccetera, eccetera, chissà quando verrà fuori. Non è questo il tuo compito. Il tuo compito è occuparti di quei tre abiti. E quando abbiamo quella machshava, abbiamo il besimcha, abbiamo la gioia.